English Bit di Giulia Crivelli. Bounce. Europe may bounce back faster than the US. Pandemic turns the world into a laboratory to test competing social systems. Il rimbalzo dell'economia europea potrebbe essere più veloce di quello americano. La pandemia trasforma il mondo in un laboratorio per confrontare i diversi sistemi sociali. Così titolava il New York Times dopo alcuni dati positivi sull'occupazione americana, considerati da alcuni economisti solo un indicatore parziale dell'eventuale ripresa economica. La prima parola che ci interessa è bounce, verbo regolare. To bounce, bounced, bounced, come in italiano può essere usato in senso letterale o figurato. The ball bounced twice before he could reach it. La palla rimbalzò due volte prima che riuscisse a fermarla. Se abbinato a back, diventa quasi un phrasal verb e si può usare nel senso di recuperare, riprendersi. He has had a lot of problems, but he always seems to bounce back pretty quickly. Ha avuto un sacco di problemi, ma apparentemente riesce sempre a riprendersi abbastanza in fretta. The airline shares have bounced back after 2 days of heavy losses. Le azioni della compagnia aerea hanno recuperato dopo 2 giorni di pesanti perdite. Se riferito a persone, può significare anche muoversi rapidamente, in allegria. He was so happy they had come to visit that he bounced across the room to greet them. Era così contento che fossero venuti a trovarlo che saltellò da una parte della stanza all'altra per salutarli. Notiamo l'uso di may come ausiliare, che aggiunge la sfumatura di possibilità o probabilità a qualcosa. You may come if you wish. Puoi venire se vuoi. May I ask you why you took that decision? Posso chiederti perché hai preso quella decisione? There is a need for more resources so that all children may have a decent education. C'è bisogno di più risorse perché a tutti i bambini venga data la possibilità di una buona istruzione. He may be a good father, but he's a terrible husband. Può darsi che sia un buon padre, ma è un pessimo marito. You look lovely, if I may say so. Hai un aspetto delizioso, se mi è permesso dirlo. Tornando al titolo del New York Times, notiamo la traduzione di pandemia, che è pandemic. Pandemy non esiste. E l'uso del verbo to turn, regolare, to turn, turned, turned, come phrasal verb accompagnato da into. Our dream holiday turned into a nightmare. Quella che doveva essere una vacanza da sogno si trasformò in un incubo. In 1 year she turned from a problem child into a model student. Nel giro di un anno si trasformò da bambina problematica a studentessa modello. 10 years of prison had turned him into an old man. 10 anni di prigione lo avevano trasformato in uomo anziano. The prince was turned into a frog by the witch. Una strega trasformò il principe in rospo.